Si scende in piazza perché dopo un anno di G20 a presidenza italiana, in questa conclusione scenografica alla nuvola di Fuksas all'Eur, in realtà non ci sono soluzioni per i problemi veri posti dalle organizzazioni sociali, sindacali, dai movimenti, e soprattutto non ci sono soluzioni né per la nostra salute, né contro i cambiamenti climatici, né per la giustizia sociale. Anzi, la tendenza è quella, soprattutto nei grandi, no? Quella di concentrare di nuovo le soluzioni in banca mondiale, quindi nella finanza speculativa, regalando i nostri soldi che già appunto faticosamente recuperati dovevano andare a rafforzare la sanità, a rafforzare i sistemi di risposta alle prossime pandemie, ma anche all'emergenza sociale forte dovuta alla deregulation, non a un fenomeno meteorologico che fa perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro nel nostro paese in particolare. Invece appunto si rafforza il sistema finanziario, si regalano soldi alle imprese senza vincoli e si continua a cambiare nome al sistema produttivo attuale, addirittura pensando da parte europea di inserire il nucleare all'interno delle energie verdi. Insomma, è tutto così distopico che scendiamo in piazza perché vogliamo schierarci e aprire una stagione, quella autunno-invernale, in cui schierarsi pacificamente insieme tra attivisti, ragazzi di Fridays for Future e di Extinction Rebellion, operai che stanno lottando per il loro lavoro, lavoratori e lavoratrici, ci sembra, diciamo, il formato giusto per affrontarla. Con una parola che, come dire, sta usando molto il movimento femminista negli ultimi anni, in piazza ci sarà una composizione intersezionale, appunto, e l'hai già anticipato, anche la GKN ha dato la sua adesione. Quando quest'estate ti è arrivata questa maledetta lettera che annunciava i licenziamenti contro i quali loro si sono sollevati, la chiama è stata forte, importante, ma è stata, diciamo, innanzitutto una chiama generazionale, ossia quei lavoratori avevano nel loro percorso di formazione, tanti e tanti di loro, l'esperienza dei social forum, e quindi l'hanno aperto come una vertenza ampia, dicendo ok, abbiamo visto dove andavamo a finire, adesso ci siamo tutte e tutti, se venite questa non è la nostra vertenza, ma diventa un richiamo di senso sistemico. Nel frattempo le ultime cose grandi che sono successe anche a livello di mobilitazione sociale, quindi il movimento femminista nuovo delle ragazze più giovani che si è unito a quello, diciamo, storico, i movimenti appunto contro i cambiamenti climatici erano già schierati in piazza, e noi come appunto veterani abbiamo soltanto proposto una cucitura, una facilitazione, perché appunto quella traiettoria ci unisce tutti, no? L'avevamo vista, purtroppo chi è arrivato in mezzo se l'è passeggiata insieme a noi, però basta, e la rivoluzione della cura, quella che noi insieme proponiamo, è proprio quella di rimettere in relazione, di attraversare con i diversi occhi e i diversi corpi le nostre condizioni e metterle tutte insieme per come sono e provare a fare una massa critica per spingere in una direzione opposta. Volevo farti una domanda, utilizzando forse il linguaggio che non si usa più, però dopo la pandemia c'è stata una ricomposizione del capitale per impedire che venisse cambiato qualcosa? È stato talmente evidente le brache di tela in cui ci avevano lasciato ed è stato talmente evidente a tutti, non soltanto appunto a chi era comunque in una dinamica di attivazione sociale, ambientale, che c'è stato un rinculo fortissimo da parte delle forze della conservazione, al punto tale che, se vedi, anche in Italia ai vertici ci hanno messo il meglio di tutti dal loro punto di vista, però noi siamo meglio di lui perché siamo donne, siamo uomini, siamo persone abituate a lottare, e questo oltretutto governo autistico di questa fase, che non dialoga con nessuno, che si concentra in un uomo forte, che peraltro forte non è, con dei partiti assolutamente asserviti che non dialogano con quello che sta fuori palazzi, è talmente di corto respiro di fronte a una situazione che non potrà che complicarsi nel tempo, che noi siamo lì ad aspettare. Il nostro non è un conflitto chiuso, è un conflitto aperto che propone delle soluzioni. Pensa per esempio ai lavoratori e alle lavoratrici della GKN, loro hanno fatto un percorso con dei giuristi e propongono una legge che risolva il problema delle localizzazioni dal loro punto di vista, con la loro esperienza. Quindi è praticamente una governance allargata che loro non vogliono accettare, ma come non la vuole accettare il G20? Io con la mia organizzazione abbiamo partecipato al percorso del C20, ossia degli oltre 550 organizzazioni dei 20 paesi grandi che partecipano in dialogo, no, con i loro governi a questo percorso, per provare a commentare, a proporre delle cose diverse, magari a sostenerle quando sono anche giuste le poche. Però in realtà non c'è stato, cioè il dialogo è stato ridicolo, peraltro a fronte di documenti che non sono la soluzione a tutti i nostri problemi, tutt'altro, o la pozione magica, ma sono dei documenti assolutamente imbarazzanti per chi li scrive, non per chi li legge e li riceve. Quindi se di fronte a un contributo costruttivo c'è quel tipo di chiusura, io penso che schierarsi sia il minimo, e con questa modalità appunto intersezionale sia anche un bel messaggio per loro e per come si dovrebbe fare. E allora io ricordo l'appuntamento sabato prossimo 30 ottobre alle 15, il corteo nazionale verso il G20 Piazzale Ostiense. E il 31 assemblea al Teatro Garbatella dalle 10:30 in poi, tutti a Roma, appunto anche per costruire insieme un calendario di iniziative che ci accompagni verso l'inverno.